Respiro. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. Oggi parliamo di aziende italiane e di innovazione, parliamo soprattutto di eccellenze, cioè di quelle imprese che attraverso la ricerca e l'impegno sui temi ambientali si stanno distinguendo anche a livello internazionale. Dunque non sembra, ma in Italia esiste un mondo molto operoso che sta esportando finalmente in giro per l'Europa e non solo idee e prodotti all'avanguardia, e noi di Respiro abbiamo deciso di sostenerle, queste aziende, e di monitorare il loro lavoro e anche la loro crescita. Questa settimana parliamo di Vegaflex, un pannello solare in alluminio prodotto da un'azienda di San Giuliano Milanese, la Almeco, in collaborazione con una società bergamasca, la Donati Group. Sentiamo allora che cos'è questo innovativo pannello solare che viene presentato proprio in questi giorni a Monaco. Abbiamo intervistato Vincenzo Ripepi, project leader di Almeco. Vegaflex è uno specchio per applicazioni nel campo del solare termico e termodinamico. Più semplicemente, fondamentalmente, è uno specchio completamente in alluminio. Si differenzia rispetto alle tecnologie tradizionali proprio per il fatto che è completamente in alluminio e serve fondamentalmente a concentrare i raggi solari su degli particolari apparecchi che, tramite un processo di carattere termico, generano energia elettrica o possono fare anche aria condizionata e così via. Sostanzialmente quello che noi andiamo a lanciare a Monaco, Intersolar, come Almeco questa settimana, è esattamente un prodotto, è la parte dello specchio di questo impianto, sostanzialmente quindi la parte che serve a concentrare i raggi solari. Perché è una novità? Perché è completamente in alluminio. Questo permette grandi durabilità nel tempo, permette di avere costi inferiori in ambito costruttivo e così via, e in un campo come quello del solare termodinamico, che sta prendendo sempre più piede ed è avallato dal punto di vista anche di volontà di sviluppo da parte di molti governi nel mondo, riteniamo che possa essere realmente una novità per gli operatori e sostanzialmente un'eccellenza di carattere italiano, in quanto Vegaflex nasce totalmente da un'esperienza italiana, che è quella di Almeco e di Xeliox Donati, che è un'altra azienda. Noi come Almeco forniamo gli allumini ad altissima riflessione per fare queste operazioni, Xeliox Donati ci fornisce la parte costruttiva in pannello grecato per dare un'eccellente rigidezza al prodotto. Ecco, lei non lo ha detto, forse per modestia, comunque questa è una piccola, importantissima rivoluzione nell'ambito dei pannelli solari, anche per chi comprerà questi pannelli, perché costeranno meno. Sostanzialmente l'obiettivo di questi prodotti è entrare nell'ambito, permettere un'accessibilità più elevata a una tecnologia che oggi è abbastanza, ha dei costi molto elevati, riservati esclusivamente ad impianti di grandi dimensioni. La flessibilità di Vegaflex, sia dal punto di vista dimensionale che di costi, può permettere lo sviluppo anche di impianti di piccola taglia, quindi anche per applicazioni, non dico domestiche, ma sicuramente di carattere industriale molto più limitato di quello che può essere una centrale di potenza di grandi dimensioni. Quindi di fatto è un passo in più verso lo sviluppo di impianti che possono essere accessibili anche al grande pubblico in termini di fruizione dell'energia solare. Sicuramente tutto ciò che ruota intorno al solare termodinamico, cioè la produzione di energia elettrica dal sole tramite questi nuovi sistemi, focalizza sempre l'attenzione degli operatori, anche perché andiamo oltre il classico pannello solare, andiamo oltre il classico pannello fotovoltaico, parliamo di una tecnologia che sta prendendo a piede adesso e che sostanzialmente ogni novità, e in particolare questa lo è perché di fatto stabilisce un nuovo punto di riferimento nell'ambito degli specchi concentratori, viene accolta con grande entusiasmo. Dai rumors che sentiamo noi, sicuramente la cosa sta destando molto interesse, diciamo. Ecco, mettiamola così, dottor Ripepi, voi vi state muovendo veramente bene da quello che vedo, da quello che ho letto, su quello che state facendo anche con Vegaflex. Adesso possiamo entrare nel dettaglio più tecnico di Vegaflex, ad esempio Può spiegare ai nostri ascoltatori quali sono i vantaggi anche sull'impatto ambientale dell'utilizzo dell'alluminio rispetto al vetro? Allora, sicuramente l'alluminio ha come primario vantaggio il fatto di essere totalmente riciclabile. Quindi è un prodotto che sostanzialmente rappresenta l'apice dell'ecocompatibilità, soprattutto perché è un alluminio che non ha trattamenti particolari dal punto di vista di altre sostanze inquinanti, ma è totalmente costruito in alluminio, mi scusi il gioco di parole. Quello che oltre questo consente a Vegaflex di essere uno dei prodotti che riteniamo assolutamente d'avanguardia è anche il fatto che si pone in un ambito di sostenibilità a lungo termine, in quanto il prodotto a fine vita utile può essere anche riutilizzato per la rigenerato oltre che riciclato. Questo è quello che ci piace amare dire, nel senso che il prodotto non è solamente riciclabile ma anche rigenerabile. A fine vita utile si può ricostruire anche la parte nobile riflettente tramite applicazione di nuovi alluminio ad alta riflessione. Quindi il prodotto non muore dopo la fine vita utile, ma può essere addirittura riutilizzato. Questo è dal punto di vista, diciamo così, ambientale. Diciamo, prego. Che poi ci sono anche che poi questo è un obiettivo importante, nel senso che quando si parla di energie rinnovabili bisogna anche fare i conti con quanto costa dal punto di vista dell'impatto, no, sull'ambiente produrre, non so, pannelli solari. In questo caso voi siete andati a toccare anche questo, che è in qualche modo a volte il nervo scoperto, no? Ad esempio, una cosa proprio rispetto all'impatto ambientale, una cosa che volevo sottolineare è anche il trasporto. Cioè è molto più facile, se ne trasportano molti di più di questi pannelli perché sono più sottili, cioè, lo so che sembra un dettaglio stupido, però di fatto poi invece abbatte, insomma, anche in quel caso dei costi di trasporto, dei costi anche legati proprio all'impatto sull'ambiente. Guardi, le dirò di più, sicuramente il prodotto rispetto alle tecnologie tradizionali ha diversi vantaggi, fra cui il fatto che è molto più leggero, quindi più facilmente trasportabile e anche maneggiabile. Sicuramente il trasporto diventa anche più, diciamo così, agevole, riducendone in termini di volume e le movimentazioni. Ma una cosa in più è anche il fatto che il prodotto si monta molto più velocemente, quindi anche dal punto di vista di costi per ulteriori strutture piuttosto che tempo uomo per poterlo mettere in opera, siamo a valori estremamente ridotti rispetto alle tecnologie tradizionali. Tutto ciò ovviamente impatta sia in termini di costi energetici che di costi veri e propri di tempo uomo. Oltre che di ulteriori materiali di sostegno fortemente ingombranti piuttosto che pesanti, perché se lei pensa che per sostenere specchi con la tecnologia tradizionale, per garantire la rigidezza del sistema servono strutture molto pesanti, quindi tanto metallo per poter fare queste strutture. Al contrario, con Vegaflex è possibile usare strutture molto più flessibili, leggere, utilizzando strutture reticolari realmente molto più meno ingombranti e meno pesanti. Quindi anche dal punto di vista indiretto andiamo ad abbattere quello che può essere un impatto dal punto di vista dei trasporti piuttosto che logistico. Ci sono dei punti su cui dovete ancora lavorare? Diciamo, ha dei nodi o dei punti deboli Vegaflex? Ma a mio parere forse il punto su cui dobbiamo lavorare di più è farlo conoscere adeguatamente, nel senso che lo lanciamo questa settimana a Intersolar a Monaco, abbiamo già dei contatti con gli operatori del settore e sicuramente il prodotto viene, i primi riscontri che abbiamo sono assolutamente positivi. Ovviamente bisogna farne conoscere di più le caratteristiche per aumentare la diffusione. Dal punto di vista di ricerca e sviluppo noi siamo sempre in prima linea con il nostro R&D per riuscire a migliorarne le caratteristiche. Diciamo che il prodotto comunque già si presenta molto stabile e molto con caratteristiche assolutamente allineate alle richieste degli utilizzatori. Una buona notizia dunque che arriva mentre in molti si spendono in previsioni sulle rinnovabili e l'Italia. Secondo il rapporto rinnovabili, entro il 2020 l'Italia può arrivare al 33% di rinnovabili sul totale. Un kilowattore su 3, quindi pari al 33% di energia elettrica, può essere prodotto utilizzando fonti da energia rinnovabile. Non è che un obiettivo, e noi speriamo che entro il 2020 magari grazie anche a storie come quella che vi abbiamo fatto sentire poco fa, si arrivi a superare questo traguardo. Ora... Respiro. Seconda parte di Respiro, bentornati, io sono Cristina Carpinelli. Prima di introdurre gli ospiti vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Dunque, questa settimana parliamo di eccellenze italiane, di aziende impegnate nell'ambiente che si stanno distinguendo in tutto il mondo per il loro lavoro e per l'innovazione. Abbiamo già detto che stanno aumentando queste aziende e sta anche aumentando la collaborazione con altri paesi europei. Quella che vi raccontiamo ora è la storia della SGS, che ha vinto il bando Industria 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico per i progetti di innovazione sulla mobilità sostenibile. In questo caso, parlando di mobilità, parliamo di un vaporetto a idrogeno per Venezia. Il progetto prevede un investimento di 12 milioni di euro, di cui 2 milioni per la SGS. Diego Andreassi della SGS Future ci spiega tutto. Si tratta del primo sistema di movimentazione navale a idrogeno che sarà interamente sviluppato con aziende, con una filiera di aziende tutte italiane, e si tratterà di un vaporetto che funzionerà grazie alla trasformazione di idrogeno in energia elettrica che andrà ad alimentare dei motori e quindi movimenterà il vaporetto. Il sistema è completamente innovativo perché verrà studiato praticamente dallo scafo al sistema di motorizzazione, al sistema di produzione energia elettrica, al sistema di stoccaggio dell'idrogeno e tutto quanto. Ecco, quando si prevede che verrà messo in circolazione il vaporetto? Ma allora, il progetto ha una durata prevista di 3 anni e è cominciato adesso col primo di febbraio, e quindi ci sarà uno studio con la presentazione di diversi prototipi nel corso dei 3 anni per ogni componente, per arrivare poi a realizzare l'intero vaporetto al termine dei 3 anni con collaudo e la presentazione del primo prototipo. Ecco, è vero che anche Milano sembra interessata perché vorrebbe utilizzarlo nel caso riaprisse la navigazione sui navigli? Beh, sicuramente c'è interesse in generale per qualsiasi applicazione richieda un trasporto navale ecologico a bassa produzione, a basso impatto ambientale, quindi sicuramente anche per l'Expo 2015 c'è l'interesse, insomma. E Venezia invece quanti ne acquisterà, se si può già sapere più o meno? Ma allora, c'è un accordo con la CTV di Venezia, che è l'azienda dei vaporetti, e per l'acquisto di 16 vaporetti a seguito di un esito favorevole della ricerca, diciamo. Quindi, se il prototipo sarà funzionante, si impegna ad acquistare 16 nuovi vaporetti. Molto spesso, lo avete sentito, ai vertici di queste aziende ci sono ragazze e ragazzi, se ancora possiamo definire tali quarantenni, che hanno studiato nelle nostre università, e allora siamo andati a vedere come si lavora nell'ambito della ricerca applicata al risparmio energetico e alle rinnovabili anche all'interno delle università italiane. Il pretesto è stata una maratona, la Shell Eco Marathon, e Paolo Magni è un ingegnere, lavora al Politecnico di Milano, ha coordinato la squadra dei ragazzi appunto del Politecnico di Milano, che hanno lavorato grazie alla Fondazione Politecnico con la supervisione del Dipartimento di Meccanica e di Ingegneria Aerospaziale alla realizzazione di un veicolo che consumasse il meno possibile e non usasse soprattutto benzina. Allora, cerchiamo di capire cos'è la Shell Eco Marathon e come si sono piazzati i nostri ragazzi. Allora, la Shell Eco Marathon è una competizione internazionale organizzata dall'omonima compagnia petrolifera, il cui scopo è far competere studenti di tutta Europa, ma di tutto il mondo in generale, affinché realizzino e facciano gareggiare veicoli che consumano il meno possibile. Cioè, vince non chi va più forte, ma chi consuma il meno possibile, ovviamente a una certa velocità che è per regolamento è fissata a 30 km orari, che poi è la velocità con cui si presume debba scorrere il traffico nelle zone urbane. Questo è in sintesi la Shell Eco Marathon. Ed è una maratona internazionale, cioè una competizione internazionale a cui partecipano ragazzi di diverse università europee, mondiali, come si struttura? Assolutamente, beh, al momento ci sono due gare principali, una in America e una in Europa. Quella europea è la più vecchia e la più nota, quella a cui partecipano più squadre. Prossimamente se ne svolgerà anche una in Asia, in Malesia. E al momento all'ultima Shell Eco Marathon Europe, che si è svolta all'inizio di maggio in Germania, erano presenti 200 squadre da tutta Europa e qualcuna anche da fuori Europa, e con studenti di università, istituti tecnici, scuole medie e quant'altro. Ecco, noi italiani come siamo andati lì? Ci racconti un po'. Allora, erano iscritte 11 squadre italiane, la migliore delle quali è stata quella del Politecnico di Milano, che si è piazzata all'ottavo posto in classifica generale assoluta e quinta in quella a idrogeno, con 2741 km al litro di percorrenza. Quindi voi cosa vi siete inventati? Cioè, qual era il vostro veicolo? Com'era? Ci racconti, ce lo descriva? Allora, il nostro veicolo, che si chiama Artemide, è stato progettato ex novo quest'anno, perché gli anni passati abbiamo partecipato con un altro veicolo, ed è stato tutto realizzato attorno al pilota. Fondamentalmente noi abbiamo preso il regolamento, che prescrive alcune dimensioni minime. Abbiamo ipotizzato una statura ragionevole per i piloti e su quella abbiamo costruito la macchina. Fondamentalmente quindi si è trattato di realizzare un veicolo che fosse il più aerodinamico possibile, che avesse minori attriti possibili sulle ruote, nelle parti interne, e in quanto a propulsione noi abbiamo utilizzato un veicolo elettrico alimentato da una batteria a idrogeno, una fuel cell. Praticamente questa fuel cell permette di utilizzare l'idrogeno in combinazione con l'ossigeno che si pesca dall'aria circostante, e in cambio si ha elettricità, un po' di vapore acqueo e un po' di calore. Quell'elettricità noi la convogliamo ai motori, al motore elettrico che fa percorrere al nostro veicolo la percorrenza che ho detto. Quindi fondamentalmente si tratta di un veicolo a idrogeno estremamente aerodinamico, estremamente leggero, molto scorrevole. Tanto per dare un esempio, il nostro veicolo pesa 40 kg. Quindi pesa di più il pilota del veicolo. Senta, ingegnere, ma perché uno partecipa a un concorso del genere? Nel senso, perché comunque dietro c'è un lavoro che vi impegna molto, che vi porta via probabilmente anche dei soldi. Insomma, perché uno poi partecipa Allora, sì, assolutamente. L'impegno è sia personale in termini di ore degli studenti che ci lavorano, dei docenti che li seguono, sia economico. Lo scopo è duplice. Da un lato serve a far imparare agli studenti su un ambito concreto e molto interessante come quello della mobilità sostenibile, a mettere a frutto le conoscenze che questi assorbono durante i corsi, e soprattutto di metterle a frutto in modo pratico su un progetto dove non c'è solo la teoria, ma c'è anche da realizzare dei componenti, cioè da reperire degli sponsor, avere a che fare col budget, trovare i fornitori. Fondamentalmente serve per fare un po' di, diciamo, tirocinio su un'impresa meno virtuale possibile agli studenti, e dall'altro lato serve anche a stimolare l'inventiva di questi studenti di ingegneria nell'ambito della mobilità ecosostenibile. Quindi da un lato imparano a concretizzare le idee e quello che imparano, dall'altro c'è un lavoro di gruppo, che probabilmente è la prima esperienza di lavoro di gruppo che questi studenti affrontano, su un progetto pluriennale, e quindi diciamo dovrebbe ridursi per questi studenti il divario tra le aspettative e le ipotesi che hanno sul mondo del lavoro e poi come questo in realtà è. Viene utilizzato anche come dire scouting dalle aziende, dalle multinazionali, dalle aziende più attente appunto a temi legati all'innovazione tecnologica? Sì, senz'altro. Noi abbiamo l'esperienza di alcuni studenti che si sono fatti valere, quindi si sono dimostrati molto capaci, e a questi studenti poi alcune multinazionali dell'automobile, ma anche di altri campi, hanno offerto o degli stage o delle assunzioni o comunque delle opportunità. Ambiente, ecosviluppo, energia, legalità, temi da approfondire, soprattutto da divulgare e comunicare. Per questo è stato indetto un concorso giornalistico aperto ai giornalisti professionisti, praticanti, pubblicisti che abbiano meno di 35 anni e abbiano scritto un saggio sulla legalità ambientale. Questi i requisiti necessari per partecipare al premio Lidia Giordani. In palio la partecipazione al corso Euromediterraneo di giornalismo ambientale, che si svolgerà da metà ottobre a inizi dicembre 2009 al campus universitario di Savona. Per maggiori informazioni potete scrivere a oltrelerighe@libero.it. Questa era l'ultima segnalazione, Respiro termina qui. Vi ricordo che potete scriverci a respiro@radio24.it. Buona giornata da Cristina Carpinelli.